L'ospite internazionale di oggi è Mark Veldman. Benvenuto Mark. Grazie, buonasera. Mark è un personaggio molto molto particolare perché ha una grandissima cultura, una grandissima conoscenza dell'Italia. Spiegami Mark, da quanti anni è che vai in Italia? La prima volta che sono andato era nel 94, ne avevo 25 anni. Ma prima era un progetto che pensavo già da alcuni anni di andare in Italia, perché prima ho fatto 3 anni di scuola di sera per imparare l'italiano, perché volevo prima capire, al minimo capire qualcosa dell'italiano, prima di arrivarci per la prima volta. E la prima volta sono andato a Firenze, ecco, e sempre ancora. Ti interrompo Firenze. Perché in realtà il tuo interesse, Firenze non è una città casuale, perché il tuo interesse è il Rinascimento. Tu hai una grandissima passione per l'arte rinascimentale e per l'architettura rinascimentale. E la pittura, la poesia. E per quello Firenze è un po' la città del Rinascimento. Ci sono anche altre città, ma anche nella Tesa di Loria ho studiato abbastanza nel 400-500 tutto l'arte dal punto di vista anche dei commendatori, dei banchieri, dei medici e tutti questi uccellai, alberti. E così sono entrato nella storia dell'arte in un modo un po' obliquo della funzione dell'arte. Perché questi, soprattutto fiorentini, erano tutti banchieri, e i banchieri non avevano una buona reputazione, ma anche teologicamente perché erano usurai, un peccato mortale. È una teoria un po' personale che forse più che altrove la cosa che facevano, per molto semplificare, tu dai un po' di soldi ai domenicani, franceschini, per fare una cappella dove si può pregare per te, si vede tutta la tua famiglia e così si fa un po' la public relations in un certo modo. E forse anche per quello che c'è tante arti a Firenze. E questo infatti è l'inizio che mi sono messo a interessare alla storia dell'arte. Prima piuttosto nel contesto della famiglia, della rappresentazione. Dopo un po' di tempo si inizia a guardare queste palle che sono molto belle, queste palle sono magnifiche. Quindi diciamo Firenze era il luogo ideale per avvicinarti all'Italia. Sì. Però tu mi raccontavi che per 3 anni tu hai fatto la scuola ma non hai mai pensato di andare in Italia. Tu volevi veramente partire solo dopo che il tuo italiano fosse stato all'altezza. Sì, certo. E prima avevo seguito delle corsi di storia dell'arte. Anche quello, volevo prima conoscere un po' qualcosa, di conoscere il contesto e soprattutto per poter parlare con le persone, per fare delle chiacchierate, perché non volevo soltanto, anzi, è una buona idea, si può andare negli Uffizi senza conoscere una parola d'italiano, non è sbagliato di fare queste cose, ma io volevo conoscere un po' più anche le persone, la gente, la città, di capire che cosa che stavano per parlare, di trovarsi meglio. E spiegami, perché tu in realtà la passione per l'arte non è stata la tua passione per lo studio, nel senso che tu hai fatto filosofia all'università, ma e come hai conciliato la filosofia e con questa tua passione per l'arte? Perché non hai fatto direttamente lo studio di storia dell'arte? Ma come dicevo, stavo scrivendo la tesi di laurea, che si occupava del 400-500, infatti non direttamente sulla storia dell'arte, ma come lo sviluppo, la nascita del, si potrebbe dire, il protocapitalismo, in modo di dire. E nel 200-300 questi usurai erano peccatori. Se tu hai un prestito di 100.000 euro e dopo un anno ti danno 110.000 euro, infatti tu hai venduto un anno di tempo e il tempo appartiene a Dio. Dunque, questo è un tipo di blasfemia. Che la Chiesa non tollerava. Sì. E nel 500-600, e quando il capitalismo, anche in modo culturale, si è più sviluppato, time is money, il tempo è denaro. E così c'è qualcosa che è cambiato fra il 400 e il 600-700. E mi sono interessato un po' a questa cosa. E come ci sono gli italiani, soprattutto i toscani, ma anche i lombardi, che ci sono loro che hanno sviluppato tutta la tecnica del della banca globale, internazionale, di come di scambio, di tutta la tecnicità del bookkeeping, e la loro rete internazionale. E così mi sono interessato a queste famiglie fiorentine, come si fa di una cosa che in sé, in teoria, non si può fare, tutti questi motivi, modi che avevano di mettersi in posizione di continuare lo stesso. E una delle cose che facevano era di dare soldi alla Chiesa. Alla Chiesa. E quindi, insomma, i banchieri sono riusciti a comprarsi anche la Chiesa. Sì, certo. È un po' quello, diciamo, è una, quello che succede oggi, che le banche, sì, in effetti, governano il mondo, e tutto è cominciato nel Rinascimento in Italia da questi italiani. E anche adesso molti banchi fanno abbastanza delle mostre, perché sanno che la loro immagine pubblica non è tanto tanto positivo. Partendo da uno studio sulla società dell'epoca, sei arrivato all'arte, che era poi la sua rappresentazione. Molto interessante. Grazie Mark, ci risentiamo tra poco. Oggi ci colleghiamo con la professoressa Badile senza farci sentire. Vogliamo ascoltare la lezione senza interromperla per apprezzare pienamente gli effetti della riforma della scuola italiana, detta la buona scuola, che la professoressa nel corso di collegamenti ci fa conoscere. Ascoltiamo. Adulo Adone, amato fesso, Annibale il terribile, annunziata novella, armonica stonata, assunta part time, aurora splendente, beata ignoranza, belloccio Adone, benvenuto altrove, bianca pallida, biondo bruno, busto eretto, calzone lino, camino fumoso, candido bucato, chiara illusione, chiara limpidina, corrente elettra, costa smeralda, Costantino singhiozzo. Ci siamo collegati troppo presto, la professoressa Badile sta facendo ancora l'appello, riproveremo più tardi nel corso del programma. Siamo di nuovo in studio con Mark, il nostro ospite internazionale di oggi. Tu, Mark, in Italia ci vai non per una vacanza di una settimana o 15 giorni, ma tu proprio la vivi. Gli ultimi 2 anni sono rimasto per 7 mesi in Italia. Prima, i primi anni andavo 2 settimane, 3 settimane, 2 settimane primavera, ma da 2015 ho iniziato di aiutare, non diciamo che è un lavoro, aiutare nell'ostello della gioventù, nel Chianti, Tavarnelle Val di Pesa si chiama, l'ostello del Chianti. Che è la tua seconda casa. Sì. E quindi praticamente tu, da turista che andavi in questo ostello di Tavarnelle Val di Pesa, sei diventato un portiere di notte. Ma non solo quello, tu fai anche da guida agli, sì, ospiti, li porti in giro, gli fai, sì, conoscere le bellezze del posto. E poi racconti anche la storia. Sì, perché gli ospiti sono liberi di fare che vogliono, di sicuro, ma è un tipo di servizio. Servizio. Alle 2 io, se qualcuno è interessato, può venire con me, o si va a Firenze, si va a Siena col bus e si fa un po' la mattina, si chiacchiera un po', si cammina, si guarda le cose. È anche più divertente per me, con giovani australiani, canadesi, giapponesi, vengono dappertutto di mostrare la bellezza della Toscana. Questo è, se per quello che ho detto, non è un lavoro, è piuttosto un piacere di scoprire. Tu hai scoperto dei piccoli gioielli di arte da quelle parti, in quelle campagne, e tu li porti a visitare queste. Mi dicevi che c'era una chiesa molto, sì, molto interessante. Dunque, in Tavarnelle c'è una bella chiesa romanica, una bella chiesa gotica, c'è un piccolo museo, delle opere del 200, del 300, del 400, 500, come fosse niente, perché in tutti questi borghi ci trova qualcosa. E si può spiegare come si fa affreschi. Non deve sempre essere Lorenzetti o Simone Martini, si può spiegare anche un anonimo del 300, una chiesa di Tavarnelle, mi va bene lo stesso. Tu hai un'altra città che ti è particolarmente cara in Italia ed è Trieste, sì, che è una città che non è tanto battuta dal turismo né italiano, diciamo, è una città di confine, sì, una città che viene dall'impero austro-ungarico. Sì, sì, sì. E che cosa ti ha colpito di quella città in particolar modo? Perché, come dicevi, è italiano, ma un po' strano italiano, e si sente abbastanza nell'Europa centrale. È abbastanza bello. Il Golfo di Trieste, certo, sono andato a Amalfi, Sorrento, è molto più bello, ma tanta gente, tanto rumore. A Trieste turisti ci sono pochi e si può camminare molto tranquillo lungo il mare. Prima mi dicevi che il Belgio e l'Italia in realtà hanno dei legami fortissimi, legati sia alle case reali che comandavano in Europa, e poi sia anche al passaggio di questi banchieri rinascimentali che sono venuti nel nord e hanno impiantato le loro attività di affari qua. Quindi raccontaci di questo, di che cosa avevi notato, di questi collegamenti che c'erano. La Chiesa è stato tanto importante qui in Belgio come in Italia, e per quello che si capisce abbastanza bene il modo di fare italiano. Penso che noi belgi, diciamo in generale, capiamo meglio come funziona l'Italia che calvinisti olandesi. Io ho sentito dire qui in Belgio che i belgi sono gli italiani del nord, quindi proprio per questi legami, sia cominciati fin dal Rinascimento e poi la Chiesa, e quindi per questo vi considerate gli italiani del nord, non so fino a che punto sia un complimento oppure no, Sì, però. sì, sì. In Italia tutto un po' più esagerato, un po' più grande, un po' più cose. Sì. E anche, come se possiamo dire, un po' di critica, anche un po' l'ipocrisia in certo modo, perché cattolici, e come il Belgio è stato sotto dominio di tanti poteri diversi, anche come l'Italia, che ci manca un po' il senso civico, il senso statale, come i francesi, lo Stato, loro si identificano Nello tanto allo Stato, Stato, certo. belgi, italiani, allo Stato, l'identificazione è già un po' più Ah, difficile. questo Anche è molto qui, e interessante, questa. anche nella Chiesa cattolica c'è un po' di ipocrisia, nel senso sì, La forma, la salviamo forma. la forma e Come poi. diceva la tesa di Loria, tu fai banchieri, sei usurai, ma tu vai a predicare la chiesa, tu fai un po' soldi ai francescani, ti fanno una bella cappella, sì, va bene. E puoi fare lo stesso. E nei calvinisti è un po' più Sì, non si potrebbe difficile, è un fare. po' più duro. E così direi che qui in Belgio, Fiamminghi, siamo un po' del nord, ma si capisce che si può essere un po' furbo, fare un po' le sue cose, che per la facciata si fa tutto regolare, ma a casa tu ne pensi tutt'altra cosa. Benissimo, piccola pausa, ci sentiamo tra un po'. Riproviamo a collegarci con la professoressa Badile per ascoltare in diretta la sua lezione. Lei non sa di essere in collegamento. Delfina scatolata, Eliodoro eclissato, Erasmo vagabondo, farina bianca, fedele indeciso, fedele garantito, festa campagnola, felice scorreggione, fermo posta, ferruccio calamita, flora marina, fiamma viva, foresta selvaggia, fosca previsione, Gaia giuliva, gemma preziosa, Gigliola fiorita, giovane arpia, Giovanni sboccaccio, Giovina la vacca, gobbo fortunato, gradita speranza, grazia gentile, Guido la vespa, Gustavo la pasta. Purtroppo è ancora troppo presto, la lezione non è ancora cominciata. Ci ricollegheremo più tardi con la professoressa Badile per ascoltare la sua lezione. Continuiamo con il programma. Siamo di nuovo in studio con Mark e vorremmo parlare di un aspetto molto interessante di Bruges, perché Bruges è stato un centro importante per i mercanti italiani che sono venuti qui nel nord, nelle Fiandre. Ed esiste una piazza che era la piazza dei mercanti italiani. Quindi raccontaci di questo, perché ci sono molti aspetti interessanti. E c'era un tipo di bar, diciamo adesso che si chiamava un bar, che si chiama Terburgs, e questo è l'inizio, l'etimologia della borsa, in moltissime lingue, come la bourse, in inglese si chiama stock exchange, un'altra cosa, ma in molte lingue è diventata, l'origine si trova a Bruges, perché in questa piazza, in questo bar, c'erano i lucchesi, i genovesi, tutte famiglie. Florentini che avevano loro palazzi e si incontravano con i mercanti fiamminghi, ma anche da tutta la rete del nord-ovest Europa, perché c'era la Hanse del Baltico e del nord, dell'Inghilterra, fino all'Italia. E c'era per esempio una pala che mi interessa in modo molto particolare. Che una pala cos'è? Una pittura, mm-hmm. un trittico dei Portinari, e questa è una dei miei preferiti. E come dicevo nella tesi di laurea, che ho studiato un po' su questi Portinari, una famiglia di banchieri che lavoravano più o meno in conto dei medici e che avevano un loro palazzo Bladeler vicino a questa piazza dove c'erano tutti questi altri italiani. E questo Portinari aveva un po' problemi anche finanziari, problemi con Lorenzo del Magnifico, ma lui aveva ordinato a Memling di fare un trittico. Ma questa pittura non è mai arrivata in Italia, perché c'erano pirati e la nave fu piratata. Sì, fu catturata. Catturata, e questa pala si trova adesso a Gdansk, in Polonia. E così il nostro Portinari ha chiesto a un altro pittore, Hugo van der Hoes, di fare un altro trittico, e questo trittico l'hanno spedito fino a Firenze, era visto per l'ospedale Santa Maria Nuova, e che si trova adesso negli Uffizi, uno dei pochi sopravvissuti di queste pale di Van der Hoes, perché in Italia non c'è mai stata una guerra di religione, ci sono state delle guerre purtroppo, ma mai una guerra di religione, e questo spiega molte cose, perché tutte le chiese fiamminghe del 3, 4, 500 erano piene di opere d'arte. Anche a Bruges, hanno sopravvissuto qualche cosa, ma per esempio a Anvers, Gent, dove la città di Van der Hoes, di questo pittore Van der Hoes, non c'è più un centimetro quadrato che ha sopravvissuto le guerre di religione. Perché di fatto quando i protestanti conquistavano le città o le chiese cattoliche, le bruciavano, le davano fuoco. Non direttamente a tutte le chiese, ma svuotavano le chiese delle immagini dei santi, perché loro erano calvinisti, esatto. Abbastanza duri, e le immagini di tutti questi santi erano per loro blasfemia. Gli iconoclasti che hanno distrutto abbastanza queste immagini, perché loro non guardavano neanche tanto il valore artistico, ma anche in questo periodo molto credente, tutti questi santi, tutte queste superflue cose di Roma che non si entrava più nel loro modo di vedere, di fare purificare tutte queste chiese di quello. Ma quindi queste opere si sono disperse, venivano prese e distrutte? No? Distrutte anche, sì. Così nella cattedrale di Anversa si trova Jordaan, si trova Rubens, si trova tutto che vuoi, ma del 4-500 c'è poco o niente, è così che una piccola chiesa come Tavarnelle gotico si trova delle opere del 3-400 che nelle Fiandre sono sicuro che c'erano tantissime, ma non si sono tanto sopravvissute e si trovano in un museo. Dopo c'è stato anche la Rivoluzione francese, questo anche in Italia. Devo dire che i francesi hanno mandato un po' delle cose a Parigi. Diciamo proprio, hanno rubato le opere e le hanno trasferite da loro. E infatti forse il più grande museo è il Louvre, che ha di tutto prelevato ovunque. Ma molte cose sono anche tornate, meno male. E in Italia c'erano tantissime opere d'arte, che neanche i francesi potevano spogliare tutte le chiese italiane delle loro opere. Riproviamo a collegarci con la professoressa per ascoltare la sua lezione. Lei non sa che la stiamo ascoltando. Maglia rosa, lasagna emiliana, libero parola, lino colorato, Lodovico Arrosto, Luca Catone, luna piena, maiale rosato, mano assunta, nerina sbiadita, novella triste, orina spesso, orsa maggiore, orsa minore, orso bruno, pecora bianca, Pierino la peste, Pino abate, Pio bono, pizza calda margherita, porta pia, porto franco, primo polemico. Niente da fare, la professoressa sta ancora facendo l'appello, riproveremo ancora prima della fine del programma. Mark, questa piazza dove erano i mercanti italiani di Bruges è citata nella Divina Commedia. Sì, anche Dante, lui non è mai andato nelle Fiandre, ma conosceva, diciamo, tutto questo contesto dei mercanti, delle famiglie ricche, anche già dal 200-300, che avevano loro collegamenti col nord. Di questa permanenza di questi mercanti nel Rinascimento, a parte borsa, ma ci sono altre parole che sono rimaste nell'uso? Ma come gli arazzi erano importanti. Arazzi viene dalla parola di Arras, una città che adesso è Francia, ma nel periodo faceva parte delle Fiandre. E legato a questi arazzi c'è il colore scarlatto. Scarlatto viene dal fiammingo, infatti. Ah, e come non... si dice, come si pronuncia in Scarlaken. Scarlaken. Scarlaken. E così italiani scarlaken, questo è difficile da pronunciare. E infatti non era un colore rosso, l'acne, con i scare forbici, che avevano ancora una procedura particolare con i forbici di mettere tutto bene, bene lisci, su questo erano i più preziosi, e così quelli più preziosi avevano i colori più vivi, e così c'è trasposizione di rosso, quello rosso vivo che si chiamava scarlatto, che viene infatti dal fiammingo. Ah, quindi l'italiano ha acquisito parole, l'italiano ne ha acquisite tante di parole da lingue straniere, e quindi queste parole tecniche che riguardano appunto riguardano l'arazzo e la tecnica di realizzazione sono state acquisite dall'italiano, e invece parole italiane che sono entrate nell'uso del fiammingo, a parte sicuramente quelle di banca, conto corrente magari. Solo borsa, borsa e banche, va bene. Ci colleghiamo con la professoressa Badile senza farci sentire. Professoressa? Professoressa? Professoressa, si svegli, siamo in collegamento! Professoressa? Preferirà di rimandare il collegamento? Anche questa nostra puntata è volta al termine. Ringraziamo il nostro ospite Mark per averci fatto compagnia, averci raccontato tantissime cose interessanti. Speriamo di riaverti presto in studio. Salutiamo il nostro pubblico e diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!